ai ta lê I am before your touch alone lonely time and time goes by so slowly and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speak your love to Fabiana Vito! E viva gli sposi! Bravissimi! Eccezionali, siete stati fantastici, avete visto che bel ballo, eh? Bravi, bravi! Ok, ragazzi! Brava, brava.